2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in questi due mesi estivi, luglio e agosto, in versione ridotta, in versione estiva, con due brevi appuntamenti la domenica dopo il GR delle 13 e alle 23:30. Da settembre poi torneremo con i nostri vestiti autunnali, invernali, primaverili nel palinsesto nuovo di Radio 24. Dunque, in questa puntata vorrei riproporvi una chiacchierata che ho fatto all'inizio del mese di maggio, quando ha esordito Expo Milano, su una passeggiata molto impegnativa che Gianfranco Giardina, uno dei nostri storici collaboratori, direttore del magazine digitale dday.it, ha fatto per andare a vedere come la tecnologia è stata utilizzata a Expo Milano. È un aspetto molto interessante, molto importante in quasi tutti i padiglioni. Ce ne sono alcuni che spiccano per un uso molto intelligente, molto originale della tecnologia, e l'abbiamo raccontata in questa passeggiata radiofonica, chiamiamola così. In larga parte hanno una natura tecnologica, un po' per coinvolgere, un po' per stupire, un po' per dimostrare in maniera interattiva e anche quindi digitale i temi dell'esposizione. E devo dire, al di là dei paesi ovviamente più poveri, che hanno una presenza nei cluster e quindi un'esposizione molto più tradizionale, le grandi nazioni che hanno fatto i grandi padiglioni, bene o male, hanno fatto largo uso di tecnologia. In primo luogo c'è da segnalare il ritorno prepotente della videoproiezione. C'è un utilizzo di videoproiettori, direi, intensivo. Credo che ce ne siano migliaia in tutta la superficie espositiva, addirittura utilizzati in stack, quindi per fare schermi più grandi. Anche più di uno, addirittura nel padiglione zero, quello dell'ONU, dove c'è uno schermo praticamente gigantesco, sono stati usati, ho contato, 13 proiettori in stack per riempire tutta l'area. E quindi anche il setup di questi proiettori non è semplice, bisogna far collimare le immagini, evitare le zone di ricopertura, insomma un lavoro decisamente ben fatto, che vedremo alla prova col test climatico, perché i proiettori chiaramente soffrono il caldo, producono essi stessi molto caldo, sì. Quindi le stanze adesso alcune sono ben raffrescate, altre già incominciano a dare qualche problema in questa stagione primaverile. Vedremo a luglio e agosto poi che cosa succederà, sia in termini di affidabilità dei proiettori che in termini di... Comunque in questo modo si riescono a ottenere schermi orizzontali molto ampi. Beh, anche a 360 gradi. Ah, certo. Quindi sono stati, per esempio, in padiglione della Thailandia, c'è una bellissima sala con uno schermo, devo dire, poi si trova anche la sala di Israele, di altre nazioni, con uno schermo a 360 gradi con immagini continue che descrivono le eccellenze del paese. Ovviamente lo spettatore a quel punto sta in mezzo a questo dome, in questa grossa sala, e si può girare in qualsiasi direzione, può seguire la scena che va su tutti i 360 gradi. La tutto questo cosa... con 10-15 proiettori per coprire tutta l'area. La stessa cosa non si poteva fare, non si può fare con dei televisori, con dei display? Sì, ma sarebbe stata non perfettamente circolare, ma sarebbe stata una spezzata poligonale. Ah, tutti certo, gli schermi piatti messi di fianco all'altro. Oppure i tondi, quelli con gli schermi curvi, l'ha fatto anche Samsung nella propria sede, in occasione di Expo, ma nella propria sede. Però il problema qual è? Che gli schermi curvi hanno un raggio di curvatura di 4,20 m, quindi si fanno dei cerchi perfetti di 8,40 m e basta. Invece qui si può proiettare sulla dimensione di sala che si vuole. Quindi la proiezione è stata utilizzata per flessibilità, sostanzialmente. Sì, anche interattiva, devo dire. Quindi molto molto bello. Per esempio, padiglione della Germania, consiglio vivamente, una delle migliori installazioni tecnologiche. All'ingresso viene dato un cartoncino bianco, differente a seconda della lingua, ma a prima vista non si capisce la differenza. In realtà cambia la posizione di alcuni marker grigi, si vedono pochissimo. Esponendo questo cartoncino in alcune aree specifiche, una serie di sensori rileva il cartoncino, rileva i marker, quindi rileva anche la lingua, e proietta sul cartoncino e solo sul cartoncino alcune immagini, alcuni video, alcune informazioni specifiche, ovviamente nella lingua che abbiamo scelto, quindi probabilmente sì, nella nostra lingua. E questo è molto bello, molto interattivo, molto coinvolgente, e tra l'altro coinvolge proprio tutti gli utenti in questa esperienza interattiva, andare in giro con qualcosa che è un pezzo di carta, quindi la cosa più analogica possibile, e che messa in alcune posizioni prende vita. E questo viene fatto con una batteria di sensori, un videoproiettore e dietro un elaboratore che è in grado di identificare in tempo reale la posizione del cartoncino. Se noi lo spostiamo, si sposta l'immagine. Fantastico. Quindi diventa una brochure virtuale. Quindi c'è un proiettore che il proiettore si sposta. Crea un'immagine, no, non si sposta il proiettore, in realtà sposta l'immagine su uno schermo che è quasi sempre nero, e soltanto quando andiamo a mettere il cartoncino accende una porzione di pixel. È molto più facile da vedere. Avevi mai visto una cosa del genere? No, questa applicazione non l'avevo vista. Interessante. È molto più facile da vedere che da spiegare, sì, per radio, ecco, insomma, però un consiglio è non perdetevi il padiglione della Germania proprio per questo motivo. Sì, tra l'altro può essere sicuramente una passeggiata anche per prendere spunto, per fare un'installazione poi riportandola magari in un altro luogo o in un'altra. Beh sì, diciamo che per tutto quello che è il mondo delle esposizioni museali e dell'interattività da museo, credo che sia un'applicazione probabilmente anche già utilizzata da qualche altra parte del mondo, non è il mio settore, non sono esperto di questo, ma sicuramente molto ben fatta. Addirittura inclinando il cartoncino, il proiettore rileva l'inclinazione e corregge l'immagine proiettata perché stia sempre all'interno del cartoncino, di fatto deformandola. Quindi il cartoncino diventa un pezzo di carta stampato solo virtualmente, e cambia addirittura dando una botta, una leggera inclinazione istantanea verso destra o verso sinistra, si volta pagina in un libro virtuale, insomma, con tutte queste informazioni legate al punto specifico dell'esposizione, che ovviamente sul cibo, l'alimentazione, l'agricoltura. Chiaro. Torno alla domanda sui display, visto che nel mercato normale non si parla più di videoproiezione, ma si parla quasi solo di televisore, quindi di display, vengono utilizzati, cioè ad esempio 4K o l'alta definizione, o poco? Allora, ci sono tanti display, ma ovviamente per la dimensione degli spazi espositivi molto grandi. Il più delle volte si tratta di display LED, dove per LED non intendo LCD retroilluminati a LED come community TV, ma proprio dove la superficie emittente sono dei LED, che sono grossini, quindi van bene per display da qualche metro di larghezza, 4, 5, 10, 15 metri di larghezza, non certo per display più piccoli. Devo dire anche c'è stato un discreto utilizzo un po' in tutti gli stand di quei giochi che sembrano degli ologrammi, non lo sono in realtà, per cui uno scenario reale contro un teatrino molto nero reale si mischia con delle immagini che sono riflesse da un vetro a 45 gradi. C'è un display nella parte alta, il display proietta per esempio delle figure su fondo completamente nero. Io vedo magari un plastico, delle palme, eccetera, eccetera, e vedo due emiri che mi compaiono in a mezzo a queste palme, al modi ologramma. È una riflessione di un display messo praticamente sul tetto di questo teatrino e inclinato su un vetro inclinato un di trucco, 45 gradi. È un trucco, però molto bello, molto coinvolgente. Display altri sono stati visti, per esempio, un exhibit molto bello al padiglione coreano, dove due robot, quelli molto grandi da manipolazione, quelli che potremmo trovare in una fabbrica automobilistica, per esempio, manipolano e ballano con due grossi display. Che però, come dire, questi display riproducono immagini che sono coordinate tra i due display, quindi a volte si uniscono perché i robot li avvicinano velocissimamente questi display molto grandi senza romperli ovviamente, poi li allontanano, poi si vedono altre scene e alla fine finiscono questo balletto unendo i due display, facendoli baciare l'uno con l'altro, e quindi poi non si vede più nessuna immagine. Bellissimo. Per chi ama la robotica sicuramente qualcosa di interessante. Altri robot, se vogliamo stare sull'ambito dei robot, nel supermercato del futuro organizzato da Coop. Interessante vedere dei robot che manipolano le mele e le dispongono sugli scaffali. sull'utilità poi specifica di questa applicazione non lo so, però sono abbastanza bravi. In 20 minuti che li ho guardati sistemare le mele ne hanno persa soltanto una, ma andate avanti a manipolarle per molto tempo. Quindi sono bravi, insomma. Tra l'altro si chiama Yumi questo robot, quindi anche un nome simpatico. 2024. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Stiamo parlando di come all'interno di Expo è stata utilizzata la tecnologia per coinvolgere i visitatori. La passeggiata impegnativa se l'è fatta Gianfranco Giardina, che ringraziamo. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale di Day.it e naturalmente poi da questa passeggiata, oltre che il racconto radiofonico, è nato anche un articolo, un servizio molto approfondito, molto ben fatto, con anche molte fotografie su appunto dday.it. Quindi per maggiori informazioni, quella è una fonte di informazioni preziosa. Poco fa parlavamo di robot, quali altre cose, Gianfranco, ti hanno stupito in questa passeggiata all'interno di Expo? Beh, allora, l'utilizzo direi quasi invasivo di proiezione o grandi schermi e specchi. Specchi intendo dire pareti a specchio, addirittura stanze a specchio, pavimento a specchio, soffitto a specchio e pareti a specchio. Questo crea una riflessione infinita dell'immagine che un po' disarma, addirittura si fa paura a fare qualche passo avanti perché non si capisce se si va a sbattere, sì. Però è assolutamente molto coinvolgente. Se nel display principale o nella proiezione principale viene proiettato un panorama marittimo, ecco che tutta la stanza, tutto il soffitto, tutto il pavimento assume quei toni, quelle tinte. Direi che questa stratagemma, evidentemente ben conosciuto da tutti gli architetti allestitori, è stato utilizzato, direi alcune volte anche abusato. Nel padiglione italiano, per esempio, diventa quasi una ripetizione, permetto di dire un po' stucchevole, perché dopo le prime due sale costruite così, trovarne ancora altre due, ecco, francamente è uno stratagemma già visto, e poi visto anche in tante altre parti. In particolare nel padiglione thailandese è stato fatto un, come vi direi, un vascone, cioè quindi un grande anfiteatro profondo, direi 6-7 metri, con tutta una balconata sulla quale il pubblico può stare attorno. Questo anfiteatro è completamente a specchio, il pavimento viene completamente proiettato, su questo pavimento che si proietta, anzi questo pavimento che si proietta viene riflesso su tutte le pareti, creando questa vasca gigantesca, tutte a tinte comuni, con un performer all'interno che balla o che si muove su scritte che passano, una cosa molto grande, attenzione, quindi direi molto, molto coinvolgente. Per fare una proiezione di questo tipo servono decine di proiettori in stack. Adesso, Gianfranco, parliamo del padiglione degli Emirati Arabi, che saranno i prossimi ad ospitare Expo, nella prossima edizione di Expo, che mi pare d'aver capito ti ha particolarmente colpito, anche perché l'esposizione riguarda un settore, insomma, a te molto caro. Hanno fatto un padiglione meraviglioso dove c'è un cinema, ma veramente un cinema multisensoriale, quindi con un'immagine gigantesca, perché al proiettore centrale in alcuni frangenti se ne aggiungono altri due o altri quattro, quindi l'immagine diventa molto orizzontale, quasi a 360 gradi. Ecco, viene proiettato un film, un fiction, girato molto bene, di una storia, di una bambina, di una famiglia, insomma tutta da seguire. Dopodiché questo teatro si apre in due, si passa attraverso lo schermo che si è alzato a quel punto, si finisce in un altro teatro dove viene proiettata gli stessi personaggi che raccontano, che escono dalla narrazione, raccontano degli obiettivi di Expo, eccetera, eccetera, e lo fanno in proiezione su uno schermo completamente nero. Per proiettare su uno schermo completamente nero ci vuole una quantità di luce molto importante, quindi proiettori molto potenti, probabilmente anche allineati più di uno. Però questo costruisce un effetto scenico, per cui sembra che i personaggi proiettati siano lì illuminati da uno spot a teatro su uno sfondo nero. È una cosa veramente coinvolgente. Io capisco tra virgolette la tecnologia che c'è dietro e l'ho intuita subito, ho visto tra gli spettatori che erano lì con me gente assolutamente comune non riuscire a capire se la persona fosse vera o se non fosse vera, e come poi si capiva che non era vera perché compariva anche della grafica, ma come era possibile questa visione tridimensionale ottenuta con queste tecnologie di proiezione. Devo dire che il cinema degli Emirati Arabi, tra altre cose, ha un impianto audio che non ha pari in tutto l'Expo, quindi di una qualità incredibile per un'installazione temporanea. Non ho mai sentito niente di tutto ciò, spesso neanche nei migliori cinema, con una gestione delle basse frequenze veramente ben fatta per una struttura che fra 6 mesi sarà smontata. Senti, visto che oramai viviamo in un mondo dove lo smartphone è il telecomando della nostra vita, io sono solito dire, e abbiamo un sacco di app, ci sono all'interno dei padiglioni di Expo molti usi che richiedono l'app, o è troppo complicato? No, ci sono, ce ne sono tanti, quasi dappertutto c'è la possibilità di scansionare un QR code con l'applicazione di Expo per avere informazioni puntuali specifiche, non si tratta di informazioni più convenzionali. Devo dire best of the show da questo punto di vista il padiglione del Giappone. Il padiglione del Giappone. Che ovviamente arriva e sulle tecnologie non è seconda a nessuno, e ha costruito un tavolo in totem interattivo, difficile da spiegare, ma tutto completamente proiettato, ma assolutamente bellissimo, con una ventina di slot all'interno di questo tavolo. Basta far partire l'applicazione specifica del padiglione giapponese, non quella di Expo, quella proprio del padiglione giapponese, e dire in che sala si è, inserire il telefono, e a quel punto si apre su questo tavolo un contenitore virtuale, una sacca virtuale, un bozzolo, dove noi possiamo prendere e tirare da questo tavolo tutta una serie di immagini tipiche giapponesi che passano, quelle che ci piacciono, le buttiamo nel nostro sacchetto con la mano, le trasciniamo con la mano, no? Queste si spostano, questa immagine proiettata si sposta, finisce in questo nostro bozzolo, e quando noi poi sfiliamo il telefono ci dà conferma che le immagini sono state scaricate sul nostro telefono. Quindi automaticamente l'app identifica quali sono le immagini che abbiamo scelto e ce le carica sul nostro telefono per tutti gli usi che vogliamo farne, per condividere con gli amici, eccetera, eccetera. Questa è una delle applicazioni più belle che ho visto fare. Purtroppo, come spesso accade, devo dire che queste cose potevano essere comunicate meglio prima e non quando si arriva nella sala, dove poi tutti si affannano a quel punto a scaricare l'applicazione del Giappone. Devo dire che però almeno in quella sala la rete wifi dell'esposizione funziona, cioè dell'Expo, quella ufficiale, funziona bene, quindi anche chi non volesse consumare la propria banda per scaricare l'app lo fa con la wifi gratuita. Bene, Gianfranco, grazie per essere stato con noi, ci hai fatto venire voglia di andare a vedere. Vuoi aggiungere una cosa? L'ultima cosa, per le esibizioni che hanno le esposizioni che hanno maggiori contenuti tecnologici, quindi per esempio il Giappone, quindi per esempio gli Emirati Arabi, i tempi d'attesa sono tra 50 e 90 minuti addirittura di fila. Questo va segnato, quindi il tuo giro tiene conto anche delle file. Assolutamente capisco. Allora, questa è un'informazione sicuramente molto importante. C'è anche da dire che in questi mesi estivi, in alcuni giorni particolarmente caldi, le file sono state ovviamente più corte, più brevi, perché meno persone, visto il caldo, andavano ad Expo. Gianfranco, grazie per questa passeggiata, grazie per questo racconto, a presto e buone vacanze. Qualche mese fa Barack Obama ha dato un consiglio agli studenti, anche e soprattutto ai genitori degli studenti, anche quelli molto piccoli, dicendo: non utilizzate solamente il computer, ma imparate a programmare, non utilizzate solo le applicazioni, imparate a fare le applicazioni, non giocate solo, ma imparate a produrre un videogioco, a programmare, a creare un videogioco. Questo è molto importante, perché a livello di sistema economico, a livello paese, avere molti programmatori, avere molti tecnici che si occupano di computer, di sistemi intelligenti, e sappiamo benissimo che già oggi molta parte della nostra economia, ma sempre più nei prossimi anni, l'economia dipenderà dal software, avere chi crea il software è estremamente importante. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Italia, partiamo avvantaggiati, perché dicono gli esperti che, visto che il software richiede una buona dose di creatività, beh, gli italiani sono creativi e quindi sono particolarmente bravi quando programmano. Bene, a proposito di questo, vogliamo parlare di programmazione, di una iniziativa molto interessante. Saluto Massimo Fubini, che è l'amministratore delegato di Contact Lab, ma che è qui in una veste diversa. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico. Tu sei amministratore delegato, nonché fondatore di Contact Lab, ti occupi normalmente di comunicazione, di che cosa? Che cosa fa Contact Lab? Io mi occupo di marketing digitale diretto, quindi gestiamo i database di molte aziende e aiutiamo molte aziende a comunicare nella maniera più efficace, più efficiente con i propri consumatori, i propri clienti. Bene. Massimo Fubini fa parte di quegli amministratori delegati che si occupano anche di tante altre cose e sono molto attenti all'evoluzione di alcuni settori. Allora ogni tanto mi danno qualche input e anzi io sono contento se una persona che gestisce un'azienda parla di altro, perché questo è anche indice di maturità verso il settore. Parliamo di coding, che se io traduco e dico programmazione, troppo brutto? No, è la traduzione letterale, quindi non ci sono problemi a pensare che il coding è voglia dire programmare. È evidente che qualcuno lo vede come un mezzo e qualcuno lo vede come un fine. Se io parlo di scuola di coding, immagino di imparare a programmare. La mia visione è più una visione di mezzo, quindi programmare è l'elemento finale. In realtà è una scuola dove si impara a ragionare, si impara l'analisi logica delle cose. Queste cose possono essere dei videogiochi, ad esempio. Naturalmente stiamo parlando di programmazione informatica, cioè imparare a costruire programmi o applicazioni che vanno sui tablet, sui computer, non programmare le vacanze o programmare qualcosa, cioè non è una scuola di organizzazione. Sviluppare software. Ecco, sviluppo software. Poi ci spiegherai qual è l'iniziativa che tu hai lanciato da pochi mesi, giusto? Pochissimi mesi. Pochissimi mesi. Per quale motivo? Visto che questo è un tema di cui si sta parlando con maggiore accento negli ultimi tempi, per quale motivo c'è questa quasi euforia nel mondo per lo sviluppo software, per la programmazione, per il coding? Ma io ti posso parlare della mia esperienza personale diretta. Io ho tre figli e vedo che ovviamente sono estremamente attratti da tutto ciò che è elettronica, quindi l'iPhone, l'iPad, il computer, sono, come si suol dire, dei nativi digitali. Ma il nativo digitale non è detto che realmente comprenda il mondo in cui è immerso, perché è talmente normale questo mondo, è come se tu fossi... sei esperto di aria? No. Dice, no, però la respiri tutti i giorni. Sì. Questa è un po' un'analogia. Quindi questi bambini che sono sottoposti a normale e quotidiana contaminazione di questi strumenti avevano e hanno tipicamente un atteggiamento completamente passivo. Che cosa vuol dire passivo? Che quando utilizzano un computer o un tablet non sono loro che stanno giocando a un qualche cosa, non sono loro che hanno uno strumento in mano che stanno plasmando per fare un qualche cosa, ma è tipicamente lo strumento che sta guidando il bambino. Ai nostri tempi, ma voglio dire non tanti anni fa, utilizzare un computer non era facile, quindi anche nel momento in cui tu lo volevi utilizzare per un qualche cosa, per un tuo hobby, che fosse la fotografia, il video, piuttosto che per giocare, comunque dovevi quantomeno approcciarlo in una maniera più scientifica, non voleva dire imparare a programmare, ma voleva dire, come dire, comprenderlo. Adesso le interfacce sono talmente semplici e banali e i giochi sono così ben strutturati, le realtà sono anche così immersive, che il rischio di un atteggiamento passivo da parte del bambino non è un rischio, è una certezza. È una certezza. Cioè tu dici l'approccio al non solo computer ma sempre più tablet o smartphone è molto più simile a quello che si ha guardando il televisore o ascoltando la radio, molto passivo. Assolutamente sì. E il tema è proprio che nel momento in cui l'interfaccia utente è un'interfaccia semplice, facile, intuitiva, si spegne il ragionamento, perché io vengo tranquillamente guidato, non devo pensare se devo andare a destra, a sinistra, a fare qualcosa, ma mi faccio trasportare dal gioco. E in questo, in un bambino che in un momento ovviamente di cognitivo estremamente importante, l'idea che possa sviluppare un processo critico, dove un processo critico vuol dire ragionare su come sono fatte le cose, come possono essere modificate, quali sono i rapporti di causa-effetto, è un'opportunità incredibile, e bruciarla facendo utilizzare degli strumenti che poi dovrà utilizzare ovviamente per tutta la vita in una maniera così passiva è veramente un peccato. Da questa esperienza personale io ho provato direttamente con i miei figli, quasi come cavie, a insegnargli il coding. Li ho mandati in una scuola perché i papà tipicamente non hanno tempo, poi il rapporto padre figlio sull'insegnamento è più difficile. Li ho mandati in un'altra scuola e mi sono tornati trasformati nel senso che... Tutti e tre li hai mandati? No, in realtà ho mandato i primi due, okay, che erano nella fascia di età giusta, e il primo in particolare era proprio la morte sua, come si suol dire. Si è divertito molto, e vedo che quando lui adesso mi chiede il computer ci va non per giocare a un gioco, ma per modificare un gioco, per costruire, per condividere un gioco con qualcun altro, quindi in un atteggiamento decisamente più strutturato, e modifica anche giochi fatti da altri. Questa è la cosa molto interessante. Quindi non c'è un tema di imparare a programmare. Poi nella realtà delle cose non scrivono del codice, perché ci sono delle piattaforme. Una estremamente conosciuta si chiama Scratch, è stata sviluppata dall'MIT, è un linguaggio a blocchi, come se fossero dei blocchetti di Lego che si combinano gli uni con gli altri, e può sembrare una cosa molto semplice, ma si costruiscono programmi estremamente complessi. Quindi non è un giochino per bambini, è un approccio che è particolarmente adatto ai bambini, ma è un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti. E in questa maniera la dominanza del mezzo è completamente, cioè è un progetto completamente ribaltato. Certo, sì. Per quale motivo secondo te è importante che, cioè, queste domande non ce le siamo mai fatte stando davanti al televisore? Nessuno ha mai detto i bambini dovrebbero avere un atteggiamento più critico e sapere qualcosa di come funziona il mondo del televisore. Certo, le possibilità sono molte meno. In realtà c'è stata un'evoluzione anche sul televisore, perché se pensi ai cartoni animati che noi vedevamo un tempo, che fossero di robot o di bambole, non avevano pressoché alcun tipo di concetto educativo dietro. Molti dei cartoni animati attuali invece puntano a un tema di interazione. Basta guardarli pochi minuti per vedere che in molti di questi i personaggi fanno un qualche cosa e poi pongono una domanda ai bambini, e prima di dare la risposta giusta passano 3-4 secondi, e ti posso assicurare da genitore che i bambini che guardano la televisione ci ragionano, elaborano, e dicono sì è il 3, no è la strada di destra o di sinistra e così via. Quindi anche nei programmi televisivi c'è stata un'evoluzione di questo tipo, ma la televisione è un mezzo monodirezionale, principalmente è broadcast. La radio, e quindi non permette un'interazione da questo punto di vista. Secondo te perché nel mondo, cioè tutti quelli che hanno lanciato iniziative in giro per il mondo, hanno fatto il tuo ragionamento? Ma io credo di sì, credo che ci sia un ragionamento comune che è legato, qualcuno ci è arrivato partendo dal tema dell'informatica, e quindi dire bene o male abbiamo a che fare con questi strumenti, è meglio impararli a utilizzare da piccoli e cercare di impararli a utilizzare in forma ragionata. Qualcuno è partito più dall'aspetto pedagogico invece, quindi non pensando a dire ma è meglio che imparino a programmare perché così hanno un futuro lavorativo, cosa peraltro vera, ma non è il punto. Obama è intervenuto in quest'ottica dicendo se noi abbiamo una nazione con una fetta di popolazione che sa programmare, abbiamo una costruiamo una strategia di business su quel settore, no? Questo è senza dubbio vero, però secondo me è fortemente limitativo come approccio, perché sembra che uno studi programmazione solo perché vorrà fare il programmatore o l'informatico che è. In realtà questo studio della programmazione è uno studio che permette di capire come scomporre dei problemi, come risolverli, come approcciarli, e siccome per risolvere un problema uno può scrivere scrivere 3 righe o 30 righe di codice, e non è detto che le 3 righe siano migliori delle 30 righe, ognuno ha dei plus e dei minus nella... insegna proprio un approccio nel quale si vedono anche delle modalità differenti di risoluzione di un problema. Quindi a tutti gli effetti è un modo estremamente interessante dal punto di vista cognitivo complessivo. Non è molto diverso da quello che è l'approccio di alcune scuole, la Montessori ad esempio è una di queste, ma anche in metodi educativi. Di metodi educativi sì. Nei quali nelle scuole fanno, non so, il laboratorio di falegnameria. Il laboratorio di falegnameria non è perché li vogliono far diventare dei falegnami, ma perché se io devo progettare e costruire una porta, devo capire che si apre da un lato e non dall'altro. Se metto i cardini in altro, la porta si apre in una maniera tale per cui forse ci passerà solo il gatto, sì, eccetera, chiaro. Eccetera. Quindi è un modo differente per poter imparare a ragionare. E siamo avvantaggiati perché facciamo un qualche cosa che al bambino piace, quindi è un qualcosa che non è unisce dire unisce due cose in una. Non ti sto insegnando l'analisi logica in italiano o in latino, che è esattamente la stessa cosa, non è differente, però non è proprio appeal per un bambino. Io ti sto dando degli elementi affinché tu possa comprendere che cosa c'è un gioco. Una cosa che a me piace dire è che io non vorrei insegnare niente. Io vorrei dare solo degli elementi di base, dei blocchettini di base, e togliere la innata, tra virgolette, paura che alcuni hanno nel provare. Quindi dire, guarda, questi sono dei pezzettini come se fossero dei Lego. Questi sono dei pezzettini. Prova e vedi cosa salta fuori. Ogni pezzettino ha un'istruzione, in funzione di come tu le combini, tu stai facendo un qualche cosa piuttosto che un qualche cos'altro. Allora, tu hai fondato una scuola. Prima di arrivare a questa scuola, volevo farti raccontare delle iniziative che già ci sono nel mondo e chiederti anche per quale motivo non ti sei agganciato a queste iniziative. Ma sicuramente non sono stato il primo e spero di non essere l'ultimo. Un'iniziativa estremamente conosciuta e che consiglio a tutti di approfondire si chiama Coder Dojo. Coder Dojo è un'iniziativa no profit che è presente in moltissime città, non solo in Italia ma nel mondo, dove ci sono dei volontari, tutti molto bravi e molto ben preparati, che vogliono cercano di avere quanti più bambini possibile da avviare a questo tipo di esperienza, e quindi fanno una serie di iniziative ogni settimana, ogni due settimane, nelle quali i bambini si possono iscrivere e fanno le loro due ore e mezzo di codice e da questo poi, come dire, ognuno prende la propria strada. Quindi hanno una missione estremamente elevata e molto interessante di provare a contaminare quanti più bambini possibile. Ok. Essendoci una tale organizzazione e un tale livello qualitativo, mi sembrava assurdo mettermi, come dire, anche in concorrenza con loro. A me interessava cercare di approfondire di più il percorso, quindi prendere questi pulcini, tra virgolette, che hanno avuto la prima imbeccata, e provare, per quelli che ovviamente hanno interesse, a proseguire in questo tipo di percorso. Quindi la mia difficoltà è differente, quindi l'attenzione sul modello didattico, sul modo con il quale riuscire a coinvolgere questi bambini e riuscire effettivamente a toccare la loro curiosità, a toccare, è un elemento decisamente più importante. Quindi in due ore ti do un gioco e ti puoi divertire, riuscire a far divertire e a imparare con lo stesso gioco più volte nel tempo è un mestiere senza dubbio. Allora, tu hai fondato una scuola che si chiama Master Coder, che per adesso è solo a Milano. In questo momento è solo a Milano, è in fase, non posso dire prototipale, perché abbiamo già fatto diversi corsi e le persone che insegnano hanno una lunghissima esperienza di insegnamento anche nei Coder Dojo, quindi questo è il livello di contaminazione che abbiamo. Il progetto è più ambizioso ed è un progetto di estendere poi questo tipo di modello anche ad altre città, voglio dire una specie di franchising, perché in tutte le città c'è questo tipo di domanda molto forte. Per esempio, io per iscrivere i miei figli a Coder Dojo Milano ho dovuto aspettare 4 sessioni perché non c'era mai posto, tale era la richiesta. E quindi l'idea di supportare altre persone che vogliono far diventare quella che è la loro, come dire, iniziativa di volontariato nei confronti di Coder Dojo, volendo anche una vera e propria professione, noi vorremmo dare non solo quella che è l'infrastruttura tecnica dietro, quindi le assicurazioni, i permessi, le commodity, computer, eccetera, eccetera, ma portare a fattor comune tutta l'esperienza didattica che noi stiamo costruendo, non solo sul computer, ma anche sotto forma di proprio editoria a supporto del computer, che possa ovviamente dare la migliore customer experience. Quanto dura questa scuola? Ma è decisamente modulare, perché se pensi che un modulo da 2 ore può vivere tranquillamente da solo, ed è quello che noi andiamo a fare. Poi noi tipicamente abbiamo dei moduli che durano dalle 5 alle 10 lezioni, che possono essere o distribuite nell'arco di un mese, 2 mesi, e questo avviene tipicamente nel periodo in cui i bambini vanno a scuola, quindi pomeriggio quando escono. Questa è un'attività che si mette al pari delle attività di musica piuttosto che sportive. Lo stesso modulo può essere compattato in una sola settimana, ed è quello che facciamo proprio in queste settimane con i cosiddetti campus estivi. Quindi i bambini vengono per una settimana e tutte le mattine fanno attività di coding, poi il pomeriggio fanno anche altri tipi di attività, perché non ci interessa tenerli al computer tutto il giorno. L'obiettivo. Non è assolutamente questo l'obiettivo. 7-14 anni è l'età che voi indicate. 7-14 anni è sicuramente l'attività più adatta affinché abbiano una bellissima esperienza e hanno il giusto livello di maturazione. Ci sono delle attività di pre-coding che si fanno anche dai 5 anni, non sono attività che sono così lunghe nel tempo, cioè non c'è un corso di una settimana o due settimane di pre-coding, sono delle attività più una giornata, due giornate. Ci sono anche una serie di sbocchi per ragazzi dai 14 anni in su. Un gioco che spopola in maniera incredibile si chiama Minecraft, peraltro acquisito da Microsoft per un sacco di soldi non più tardi di molto tempo fa. Minecraft ha una cosa bellissima: è un gioco che è aperto dal punto di vista di codice, e quindi i ragazzi possono costruire degli hack, cioè delle modifiche al gioco, quindi non sono più, come dire, dei giocatori di un qualche cosa fatto da altri, ma sono dei giocatori che attivamente possono modificare il gioco. Per modificare il gioco uno lo può fare a manina, spostando dei blocchetti e così via, oppure scrivendo del codice. Questo codice è Java, che è uno ovviamente dei linguaggi più conosciuti al mondo. Quindi l'idea che delle persone possano imparare un linguaggio come Java, magari non ne capiscono subito il perché. I videogame in generale danno una motivazione estremamente forte e interessante per imparare un qualche cosa. Quindi magari per l'adulto la scuola di coding è vista come una finalità per imparare a programmare. Per il gioco, per il bambino, il coding è un mezzo per divertirsi ed essere più bravo a determinati giochi. Noi ne vediamo un po' l'aspetto educativo, che vogliamo mantenere nascosto. Cioè noi non vogliamo pubblicizzare al bambino: vieni qui che ti insegniamo a ragionare, perché non è sexy, non è interessante. Sì, sì, certo. Ovviamente. Noi vogliamo che lui si diverta, che non abbia paura a utilizzare lo strumento, a provare, a condividere quello che sta facendo con gli altri, non abbia paura a copiare, perché copiare non è brutto. Cioè, a scuola copiare è brutto. Nel mondo del coding copiare è bello, perché quello che tu vai a copiare, innanzitutto lo devi capire. Perché se copi senza leggere, poi perché copi? Copi perché tu vuoi modificare, perché copi, nessuno ti dà un voto. Copi qualche cosa perché dici: questo l'ha già fatto, è fatto bene, funziona, io ne voglio aggiungere un pezzo, quindi è inutile che vada a riscrivere quella parte lì. Quindi nel momento in cui tu copi c'è il valore di condividere, di sapere che qualcuno ti sta facendo risparmiare del tempo, e quindi tu a tua volta rilascerai il tuo codice aperto affinché altri risparmino del tempo. Ma soprattutto quello che tu vai a copiare veramente lo manipoli, lo condividi, lo tocchi, e quindi impari il ragionamento degli altri. Perché magari tu stai facendo qualcosa, non ti riesce bene, e vai a vedere come altri hanno risolto lo stesso problema. Alla fine della scuola si ottiene, cioè, c'è un esame, c'è un, non c'è assolutamente, un diploma. Non c'è assolutamente nessun tipo di esame, né un tema di diploma. Ovviamente noi diamo, come dire, dei bollini che mostrano quello che è, come dire, la, non la bravura, perché noi non vogliamo avere bambini più bravi e meno bravi. Ognuno fa il proprio percorso nel tempo e ognuno ha interessi diversi. Quindi magari uno sviluppa più codice per fare la musica, alcuni sviluppano più codice per fare i videogiochi, e come tali questo sviluppo del codice ha delle problematiche di scomposizione dei completamente differenti, sì, quindi sì, non si possono neanche fare dei paragoni. La cosa molto bella è che col tempo i bambini insegnano ai bambini. Noi una cosa che diciamo da subito, diciamo, quando voi bambini avete un problema, non avete capito qualche cosa o non vi riesce qualche cosa, prima di chiedere a noi, come dire, formatori o mentor, chiedete agli altri. Chiedete agli altri, guardate che cosa stanno facendo gli altri. E qualcuno potrebbe pensare, come dire, che lo facciamo perché così risparmiamo del tempo, possiamo seguire delle classi più numerose. Innanzitutto le classi hanno un rapporto di formatori bambini stringentissimo, cioè cerchiamo di avere un formatore per 5, 6, 7 bambini. Poi è ovvio che se sono un po' più grandicelli, un po' più formati, allora la cosa può essere differente, ma il valore di confrontarsi con gli altri, di guardare attorno e della collaborazione è uno dei valori fondanti. Sì. No profit? No, la società non nasce come no profit per una scelta molto ben definita. Noi vediamo nelle iniziative no profit, tipo quelle di Coder Dojo, un elemento sociale estremamente importante e rilevante, ma come ogni attività no profit ovviamente si basa sul lavoro di volontari. Sì. E il lavoro di volontari funziona molto bene nel caso di Coder Dojo perché sono delle pillole di formazione, ma in una scuola molto più strutturata che deve seguire nel tempo, il lavoro del no profit non si presta. Quindi uno dei nostri elementi è quello di poter stare sempre al passo non solo delle tecnologie ma dei modelli educativi e cercare di avere delle persone che possano dedicare molto tempo a questo tipo di formazione, quindi che ne facciano anche un lavoro. Per farne un lavoro devono poter ovviamente essere remunerate, dobbiamo avere sufficienti risorse da investire per confrontarci con i colleghi internazionali e così via. Diciamo che è una società low profit. Non c'è un'idea di remunerazione del capitale. Questo io è un investimento che ho fatto come società a cui non mi attendo nessun tipo di ritorno di capitale. Di sicuro è una struttura che si può muovere molto più agevolmente rispetto a una no profit per comprare dei computer, investire in dei libri, scaricare una fattura e soprattutto pagare i formatori. Senti, non esistono altre scuole del genere? Sì, ce ne sono e mi piace anche fare pubblicità a dei competitor, tra virgolette. Una delle scuole dove ho mandato peraltro i miei figli, quindi la scuola che ha creato Riccardo Donadon in H-Farm nella zona di Treviso, sono per me stati anche una fonte di ispirazione. Io è proprio lì che ho visto quanto sono stati contenti e felici e cambiati i figli, quindi non posso che parlare bene di lui. Ci sono poi altre scuole, non ne ho avuto ovviamente un'esperienza diretta, quindi non ne posso parlare né bene né male, e senza ombra di dubbio quante più iniziative di questo tipo ci sono meglio è da un punto di vista sociale. L'importante è che vengano fatte col giusto livello di serietà e approfondimento, perché ahimè non ci si guadagna con questo business, si va a pari, lo dico sì, molto, no, il motivo è altro, diciamo, e quindi il motivo è altro, sì, e sì. Quindi è in gioco, come dire, l'educazione dei figli, non è in gioco il fatto di guadagnare un po' di più o un po' di meno. Bene, io ringrazio Massimo Fubini per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Enrico, grazie mille e grazie di avermi fatto parlare finalmente di un qualche cosa, come dire, di più exciting della comunicazione, del marketing digitale, che poi ha degli aspetti sexy anche quello. E che ha permesso ovviamente di finanziare questa scuola, quindi non vogliamo assolutamente tornare su questi passi. A presto. Grazie mille. Concludiamo questa puntata di 2024. La trovate su internet sul nostro sito www.radio24.it. Ma come sempre vi consiglio di abbonarvi al nostro podcast, in questo modo non perdete nessuna delle nostre puntate. Tra poco ci sono le notizie di GR24, io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024, scritti in cifra 2024 e radio24.it. Potete utilizzare naturalmente anche Facebook oppure Twitter, cercate col motore di ricerca interno Enrico Pagliarini o anche 2024. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.